America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Continuo a farvi sentire alla chiusura di Wall Street perché i mercati continuano in qualche modo a dominare la giornata. Si parla di correzione, si parla di aggiustamenti al ribasso, si parla di realizzi di profitti. Beh, ieri c'è stato un momento in cui l'indice Dow Jones perdeva addirittura 200 punti e dunque c'è stato un momento di una leggera tensione, perché a quel punto ci si domanda se per caso si continuerà a perdere, magari andare a 300, a 350, oppure se si riesce a recuperare. Alla fine, vi dicevo, il Dow Jones ha chiuso con un ribasso dello 0,6% a quota 12.932,09, quindi siamo sotto il livello di 13.000, con una perdita in termini assoluti di 76,44 punti. Ma abbiamo avuto poi una caduta dell'oro del 2% a quota 1.606, il petrolio, anche il petrolio è caduto abbastanza in verticale, siamo attorno a $97-96 al barile. E devo dire che l'insieme della reazione di questi mercati e degli operatori è una reazione che tiene conto di quel che è successo in Europa. Ho visto un importante finanziere ieri sera, il quale mi diceva di essere davvero molto preoccupato per quel che è successo sia in Grecia che in Francia, e mentre io ritenevo che tutto sommato quello che era successo in Francia poteva essere così un contrappeso alla durezza della Germania nell'imporre determinate misure restrittive, non è quella la percezione che ho avuto da questo importante finanziere, il quale dice qui il problema è che se si torna a spendere si vanno a peggiorare i conti pubblici, quindi non è che si debbono fare dei passi indietro sulla austerità, ma si debbono semmai togliere una serie di rigidità che favoriscono la crescita. E devo dire che non ha tutti i torti, perché tutto sommato qui negli Stati Uniti ci sono state delle spese pubbliche straordinarie, 800 miliardi di dollari e passa, stanziati dal governo americano, che dovevano andare in infrastrutture, che dovevano andare in nuovi settori, soprattutto quello energetico. Ebbene, il risultato è stato piuttosto modesto. Quindi qual è la preoccupazione oggi? Beh, la Grecia è in qualche modo è già relegata in un suo angolo e sceglierà il suo destino, e si ritiene che non avrà un impatto determinante su quello che potranno essere i conti a questo punto di banche americane o di banche europee. Però per la Francia la storia ovviamente è molto diversa, e dunque se si torna a spendere, se Hollande dovesse decidere di aumentare molto la spesa, ecco, questo preoccupa gli americani. Ecco, di questa situazione, dell'impatto dei risultati elettorali europei e di quel che sta capitando in America, ma dell'impatto politico anche dei risultati europei sulle elezioni americane, parlo con Massimo Gaggi ai microfoni di America 24. Buongiorno Massimo. Buongiorno a voi. Ecco Massimo, dunque ho dato un po' un quadro, l'hai sentito, in cui così raccontavo che questa onda lunga dei risultati europei ha un impatto sia politico che economico anche qui negli Stati Uniti. Cominciamo dall'impatto politico. Per Obama credo che ci sia un minimo di preoccupazione, perché insomma qui il messaggio è un messaggio per il cambiamento, non importa chi sta sul sedile del guidatore. Dunque, secondo te loro sentono così questa pressione, questo vento di cambiamento che arriva dall'Europa e dunque dovranno aggiustare qualcosa, oppure vanno avanti per la loro strada? Beh, insomma, abbiamo visto che Obama ha già invitato Hollande alla Casa Bianca prima del G8 della prossima settimana, quindi in qualche misura cercherà forse di anche ricavalcare questo successo dei socialisti, quindi di darsi anche lui un'immagine di uomo comunque che può cambiare le cose, anche se in realtà fa parte della schiera di quelli che hanno governato negli ultimi anni. Hai visto che diversi giornali hanno pubblicato la foto del G20 londinese del 2009, sottolineando che di tutti quei leader dell'Occidente che c'erano in quell'immagine sono rimasti soltanto in carica soltanto Obama e la Merkel, perché sono spariti praticamente tutti gli altri, da Berlusconi a Sarkozy, da Gordon Brown a Zapatero, passando per il premier giapponese e per quello australiano. Chiaro che questo sarà il leitmotiv, uno dei leitmotiv della campagna elettorale, è legato ovviamente sia a questo, alla volontà di cambiamento e alla debolezza dell'economia che c'è anche negli Stati Uniti. Stranamente Romney è stato abbastanza sotto il radar in questi giorni. Secondo te anche loro stanno valutando che tipo di strategia debbono adottare guardando in avanti? Mitt Romney deve ancora chiudere la sua campagna delle primarie, ormai ha la nomination in tasca, ma insomma ancora non c'ha tutti i delegati, deve ancora giocarsi le ultime carte. È preoccupato in questo periodo, mi pare soprattutto di tamponare qualche possibile falla che potrebbe venire fuori durante la campagna vera e propria, come quella sulla posizione che aveva assunto sui salvataggi delle auto. Ecco, Detroit, settore auto, economia. Il dato sulla disoccupazione la settimana scorsa è andato piuttosto male e così ci sono preoccupazioni. Secondo te l'America sul piano economico è più preoccupata per quel che può capitare internamente o per i possibili rimbalzi in arrivo dall'Europa, o tutte e due? Ma il rimbalzo dell'Europa sicuramente sono da parecchi mesi, il ritornello di tutte le dichiarazioni politiche che ascoltiamo in America, anche di molti messaggi mandati da Obama, da Geithner, eccetera. Però il livello di recessione che stiamo sperimentando nell'Europa mediterranea in questi mesi è più o meno quello che si aspettavano, quindi non è molto più del previsto. Quello che loro stanno sperimentando è una flessione di quell'incremento dell'occupazione che si era registrato nei mesi invernali, probabilmente favorito anche da un clima molto mite che ha agevolato alcune attività economiche. Ed è già il secondo mese che questo indice dell'occupazione segna un incremento molto più limitato delle attese, e soprattutto è abbastanza preoccupante un dato che in altri momenti sarebbe stato preso per positivo, cioè il calo dell'indice di disoccupazione all'8,1%, che però è il frutto di un'uscita dal mercato del lavoro di più di 500,000 di americani che evidentemente sono sfiduciati, quindi è un quadro effettivamente complesso e i prossimi mesi potrebbero essere di nuovo allarmanti per l'economia americana e per la campagna elettorale di Obama. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, oggi su iTunes, il nuovo single di Fiona Apple, Every Single Night. La cantante di New York sta per lanciare il suo quarto album dopo 7 anni di silenzio. Uscirà il 19 giugno. Fiona Apple, Every Single Night. If what I am is what I am, 'cause I does what I does, then brother get back, 'cause my breath's gonna bust open. The rib is the shell and the heart is a yolk, and I just made a meal for us both to choke on. Every single night it's a fight with my breath. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.